niente da dire, sei come sei, cammini dove vuoi. E poi sai, tu mi fai morire, la tua energia riesce ad accendermi. Tu sei irraggiungibile, come potrei mai riuscire a vincere? Dove sei tu, così irresistibile, così nitida, così indelebile su di me? Riesci a farmi sognare, oh che magia, siamo alibi di me. So se sei solo un'illusione o una fantasia così reale in me.